Roma, 19 febbraio 1970, siamo in casa dell'onorevole Nenni. Allora, come ti dicevo, non ho domande di attualità da farti, almeno in questa sede, né un'intervista, come dire, di tipo contemporaneo, no? Mi propongo semplicemente di raccogliere del tuo materiale biografico attraverso una testimonianza orale. Dicevo prima, non sono cose assolutamente nuove, anche se ci sarebbero alcuni punti della tua biografia che si potrebbero toccare, ma questo, si può vedere casomai se capita. Ma ci interessa sentir raccontare, oltre che aver letto per iscritto, così alcuni episodi, no? Uno di questi che ti chiedevo era in forma molto personale, no? Come se tu fossi, scusa, Valpreda che deve raccontare alla questura che cosa hai fatto in tal giorno, ma per dire in modo assurdo, la settimana rossa. La settimana rossa fu, potremmo dire che fu il punto culminante di quella che si può oggi definire la contestazione dei primi 15 anni del secolo. Gli episodi principali che precedettero la settimana rossa, che rientravano in questo quadro, furono il grande sciopero agrario nella Valle Padana del 1908, al primo sciopero internazionale che organizzammo in Italia. Io allora ero un ragazzo, ma vi partecipai attivamente a Carrara, al primo sciopero internazionale per la fucilazione in Spagna di Ferrer. Successivamente il grande sciopero contro la guerra di Tripoli in Romagna e più precisamente a Forlì, diressi assieme a Mussolini allora, e poi la settimana rossa. La settimana rossa fu certo il momento in cui questa contestazione, come diremmo oggi, assunse le forme più vaste, con ripercussioni che dalle Marche e dalla Romagna si estesero a tutto il paese. Che cos'è che va col nome di Settimana Rossa? Il 7 giugno noi avevamo organizzato ad Ancona una giornata contro le feste che si facevano allora dello Statuto del Regno, feste di carattere essenzialmente militare. Tenemmo questo comizio in privato perché la questura lo aveva proibito, in una sede repubblicana di Ancona che si chiamava Villa Rossa. Parlò Malatesta, che era già avanti negli anni e carico di gloria per i suoi precedenti rivoluzionari, ma che suscitò qualche contrasto per accenni polemici che fece attorno all'attività dei partiti cosiddetti legalitari, insomma dei partiti di sinistra cosiddetti legalitari. Parlai io, poi ci fu qualche altro intervento e poi uscimmo, e uscimmo con la chiara intenzione di andare al centro di Ancona e dove si svolgeva questa cerimonia militare e di fare una contromanifestazione. Non eravamo molto numerosi, forse 500-600 persone, sarebbe stato relativamente facile disperdere una folla così ridotta, insomma, visto il numero piuttosto imponente delle forze di polizia dei carabinieri che avevano circondato Villarossa, ma invece ne nacque un parapiglia e i carabinieri spararono, ci furono due morti, rimasero sul terreno, uno ferito assai gravemente che morì il giorno dopo. Noi ci radunammo immediatamente dopo e proclamammo lo sciopero generale senza limiti di tempo. Ecco, credo che fosse una delle prime volte in cui interveniva questa nozione, questa tattica o strategia, come diavolo si vuole, dello sciopero senza limiti di tempo. Naturalmente non eravamo ancora in grado in quel momento di valutare che ripercussioni il fatto dell'eccidio e la proclamazione dello sciopero avrebbero avuto, e queste invece andarono al di là delle nostre stesse aspettative. Non solo perché lo sciopero fu massiccio, completo, eccetera, ma perché fulmineamente si estese a tutta la Romagna, oltre che a tutte le Marche.